CQ10, CQ10 per una prova radio, c'è qualcuno? Prova. Prova. Interruzione, tu avevi un'antenna? No, sul cavo, ho dovuto sostituire un bel pezzo di cavo. Volevo sapere se adesso va bene, sembrerebbe dagli strumenti di sì, però volevo una conferma. Sì, va benissimo, 9+2 mi stai arrivando, la radio è perfetta. Ok, bene. Anche tu stai provando qualcosa? Sì, ma ho la sensazione di avere la batteria del microfono scarica, per cui stavo appunto provando, mi sono reso conto che la batteria, se aumenta un po', non ce la fa, è scarica, e dunque in questo momento non ne ho altre, non la posso nemmeno sostituire. Comunque la radio va bene, non è certo debole. Sì, perché è bassa, ma se faccio così, se faccio così, vedi, sicuramente c'è qualche piccolo difetto, confermi? No, assolutamente no. C'è questo rumore di fondo, non so se sia qualche ventola, però c'era anche prima, ecco. Sì, ma quella è l'alimentatore, è un switching con la ventola che è abbastanza vicino al microfono, per cui, vabbè, no, anche perché ieri sera quando ho fatto questa operazione qua stavo andando male, allora ho ridotto di nuovo, ma infatti ho pensato, ma probabilmente la batteria che non è abbastanza carica, ce l'ho parecchio tempo, è molto molto tempo fa. Quella è 9 volt? Sì, quella è la 9 volt, montata nel microfono MB4 della ZG. Allora ce ne metti una di quelle buone, una Duracell, per un paio d'anni che a posto. Sì, infatti ci vorrebbe una di quelle, ma adesso non esco, tu lo sai, io esco raramente, sempre per una questione di prudenza a riguardo dei contagi eccetera, perché il problema che ho avuto non vorrei avere le immunità abbassate, per cui esco solo esclusivamente quando è strettamente necessario. Beh, è giusto, è normale che sia così. Va bene Giulio, dai, ti lascio, ritorno a fare quello che sto facendo, ci sentiamo stasera eventualmente. Ok, d'accordo, no, ti volevo dire adesso, visto che ci sei, poc'anzi stavo guardando sul tablet un filmato di un radioamatore, che adesso non ricordo la sigla, che anche lui confermava il fatto dell'abrogazione della tassa e anche della richiesta della licenza per esercitare l'attività. Anche lui, lo stavo ascoltando, ha fatto tutto un video, per cui anche lui ha confermato tutto quello che ti ho detto ieri. Vabbè, poi come ho detto ieri lo vedremo, tanto per quest'anno è pagato, quindi ci sono più di 4 mesi di tempo per vedere cosa succede. Vabbè, certo, per quest'anno non ce lo dobbiamo pensare. Pensando a quello che abbiamo letto sulla Gazzetta Ufficiale, nemmeno il prossimo anno ce dovremmo pensare. Va bene, dai, ti lascio alle tue faccende, ci sentiamo eventualmente stasera. Ok, ciao ciao, buona giornata, ciao. Ok, Papa Giulio, anche a te buona giornata, ciao. Ciao ciao ciao, buona giornata. Oh, ciao ciao qua, buona giornata anche a te. Buongiorno, buongiorno. Claudio, dove sei? Claudio, dove sei? In macchina, ho sentito il classo. Ah, aspetta, si è attaccato l'allarme. Il ladro è dietro l'entrata. Cos'è il falso allarme? La macchina al sole, parte l'allarme, giù ho preso. Sicuramente è molto buono allora quell'allarme. Sicuramente, guarda. Quando c'è il ladro poi non scatta. Fatta niente una mosca, lasci il finestrino aperto e parte da solo. Sì, sono tarati male i sensori degli ultrasuoni, guarda. Quando fa così è esagerato. Sono troppo sensibili, ci dovrebbe essere un timer di regolazione per quello di se è buono, poi se non è buono ti ritieni così. Sì, buono, non so, non è manco la mia, quindi. Ciao Giulio, buongiorno, non so se mi ascoltate. Sì, che ti ascolto qua, ciao, buongiorno anche a te. Allora, la visita in Asia ti stavano facendo, no, sto scherzando, dai. Sarebbe molto più scattare l'allarme così, anche perché magari ci passa qualcun altro con un rumore sordante di marmitta eccetera e parte l'allarme. No, non c'è niente qua, no, non è roba sordante, non sono a casa. Però intanto l'ho fatto anche ieri sera, deve essere il caldo, boh. Adesso la sposto. Ok, vabbè, cose che succedono. L'elettronica è sempre un rimbus. Al 100%, anzi al 1000 per 1000 addirittura, va bene così, dai, va bene così, raga. Allora Gianfra, sei indaffarato stamani, non puoi stare alla radio? No, sto aspettando una chiamata, sempre via radio, e quindi sto facendo tre cose insieme. L'importante è che adesso vedo che sta tutto funzionando, perché ieri si è sganciato tutto di colpo. Ed è una scocciatura quando è così, perché ho dovuto sostituire 30 metri di cavo, quindi è un macello. Volevo chiederti Claudio, ma una cosa, ce l'hai sempre quel portatile digitale? Ma quelli che mi hai dato tu? Sì, uno qualsiasi di quelli, però digitale, nel senso a modulazione digitale. Non è digitale quello, non è DMR, se due mi pare siano DMR. Io non neanche me lo ricordo che apparecchi sono, no, perché sto cercando qualcuno per fare delle prove che purtroppo io non posso fare perché gli apparecchi sono troppo vicini, richiedono degli apparecchi con segnale basso che arrivino piccolini in modo da vedere un po' come funziona un certo sistema. Gianfra, Sassari, io qua non c'ho niente. L'unica cosa che ho per ascoltare, per entrare ogni tanto a salutarvi è questo baracchino da 5 watt con l'antenna attaccata all'albero delle olive. Manuele c'era l'albero del pero, io ce l'ho attaccata all'albero delle olive. E al pero è vietato perché ti dà più watt e quindi non sei più a norma. Mentre le olive vanno bene, sono piccoline, quindi sei nei limiti della potenza. E sicuramente sarà così. Vabbè. Non so manco quanti watt ti arrivano, ma penso a 3-4 watt, non so. Quanto ti arriva Giulio? 7, 8, 9, quanto ti arriva? 9, 5, la radio è sempre la solita. Vabbè, i microfoni sono sempre quelli, ho un microfono da palma, non ne uso, qua c'è l'MB più 5. Con questo c'è l'MB più 5, con l'altro baracchino, con l'Elbe c'è il Tane più 3. Però ho attaccato questo, ho attaccato questo, ho provato questo perché ha 2,20, dai. Sassari. Va bene, Giafra, non ti posso aiutare, non c'ho niente qua, nulla di nulla è meglio così, né V, né U, né H, né Bingo e né Bongo, capito? Dopo Ferragosto facciamo anche pulizia sul tetto, ma Sassari lascio molto probabilmente, sto pensando a cosa fare, molto probabilmente lascio la Mantova e quel dipolo che c'è che non dà nessun fastidio, quello... 10, 15, 20, 40 e 80 e basta, il resto va tutto a terra, già una parte è a terra però non ce l'ho fatta perché da solo non mi fido a salire sopra il master per staccare la 520, quindi dopo Ferragosto lo facciamo, va bene, poi per il resto non c'è più nessuna motivazione per quanto mi riguarda per tutto il sistema. Sì, no, vanno oggi, giusto per sapere se c'era qualcuno in grado di fare qualche prova, ecco. Non so niente, sono fuori dal mondo, guarda. Fuori dal mondo. Manco partite, niente, sto guardando Giulio. Mi sembra che ci sia la Juve domani, su canale 5. Per quello del Galapagos intanto, piglia giù sul burro da Lyon e apprezzo il burro a Cempio. E che lo sa, io mi auguro Lyon, tutto sommato cosa devo fare, d'altronde quest'anno la squadra è quella che è, per cui ce la dobbiamo accontentare, intanto non possiamo cambiarla, non lo possiamo cambiare, poi saremo a vedere il prossimo anno cosa combinano, il prossimo anno, fra un mese, nemmeno fra un mese, perché inizia settembre il campionato, per cui vedi bene che a questo punto c'è anche poco tempo per gli acquisti, per i nuovi acquisti e anche per le cessioni. Saremo a vedere qua, non so cosa dire, anch'io non è che ho molta fiducia e domani io, anzi, io forse per precauzione o forse per, non so per quale motivo, ma dico che non passa. Io dico così, speriamo invece che mi stia sbagliando, tutto lì. E va bene, dai. Allora, Giacca, 30 metri di cavo hai dovuto sostituire, caspita, cosa hai messo, cavo buono? No, c'era dei problemi di corrosione, il cavo era buono, quello che c'era era Lampenol, l'ho dovuto togliere e metterci l'altro che c'avevo, che è il coso, il Belden, ma ormai aveva uno spezzone abbastanza corto, quindi... 25 metri di cavo ce l'avevo, ce l'ho messo e comunque ho fatto un po' di casino perché c'è un connettore che si è completamente ossidato, quindi l'ho tolto, l'ho staccato e ho saldato tutto, quindi niente connettore, direttamente saldatura per collegare questo cavo, e adesso per un paio d'anni si dovrebbe stare tranquillo. Beh certo, anche di più di un paio d'anni. No, ovviamente è un ottimo cavo, sicuramente. Non c'è problema. E allora qua, non vuoi scendere le antenne, no? Vuoi tenere solo la Mantova, è un di poco. Quanto basta per fare qualche chiacchierata anche con l'Europa, insomma. È sufficiente un di poco per fare attività amatoriale almeno in Europa. Sì Giulio, aspetta un attimo, sono al telefono, un secondo solo poi ti rispondo. Sei un po' gracchiante Giulio, guarda se sei centrato bene o se hai toccato qualcosa lì. No, è la batteria che è scarica, la batteria che è scarica. Posso fare così, forse adesso ho migliorato un pochino, però la batteria è scarica. Non ho effetto di strappo, quindi è tutti a zero. Sì, la batteria è carica. Va bene, adesso cambio il microfono, un attimino cambio solo il microfono, tanto un istante, ci metto l'altro, ci metto così, in 448 abbiamo risolto il problema. Così dovrebbe andare bene, Gioca. Sì, va bene, è giusto. Anzi, ti dico di più che questo mi piace anche di più, ma grazie. vedevo che questo è l'MC 60, aspetta, se lo metto così, perché ho qui, ho notato una cosa, ecco, così è una potenza, così ne ha un'altra, e c'è differenza, 1, 2, 3 prova, 1, 2, 3 prova. Io ti ascolto male, Giulio, non so. No, per me va bene, la seconda era un pochettino più alta. Mettilo in posizione in, il microfono sotto, in. L'impresa mettila a 50 però, perché io ti sento male con questo baracchino. Va bene, così, così è migliorato? Se Gianfranco ti sente bene non lo so, ma io ho questo baracchino, però ti sentivo bene ieri quando stavi parlando, ti sentivo molto bene con questo baracchino, oggi ti sento male. Sei basso basso il radio. Ah, sono basso il radio, vabbè, per quello così, adesso ho aumentato la radio. Ecco, così dovrebbe andare bene, suppongo che vada bene così. Ma sembri che stai parlando dall'oltretomba, sei 10 km a distanza, boh. È dispersa la modulazione, non lo so. Sì, lo so, sto parlando a distanza, ma è quello, se poi devo aumentare un po', ancora un po' ho aumentato la macchina, adesso così va meglio. E così per me va meglio. E ti ricordo che con la radio il macchina deve andare sempre a 1, con il processore inserito e preamplificato inserito dell'M60, poi se agli altri non piace non lo so, io ti sono abituato a sentirti così, capito, come siete abituati a sentirmi voi, se no per me è diversa la modulazione, non è che non stai uscendo, stai uscendo ma diverso, più molto più basso, boh. Lasciala così, già va bene. Giulio, ti dovresti avvicinare al microfono, perché in ogni caso anche se da tavolo non è che lo puoi usare a distanza al microfono da tavolo, almeno a 20-30 centimetri devi essere, se no fai l'effetto Claudio, che non è che sia una radio buona, perché si sente la gente che sta parlando in sottofondo anche. Ok. Beh, io mi stavo lavorando soprattutto alla trasmissione, i picchi di modulazione, adesso ho lavorato ancora, dovrebbe andare bene così, adesso sono più vicino al microfono, sto usando la MC60 adesso qua. Come qualità peggiorata? Non ho capito, voglio fare, aspetta che aumento il volume perché ce l'avevo molto basso, ecco, lo dicevi? No, così va bene, lasciala così. Ok. Sì, no, questo che stavo facendo, se ho notato una cosa, sì, qui non c'è stato auto o qua, e adesso è su, quello che si utilizza anche per fare l'accordatura con l'accordatore automatico, no? Cioè auto e poi tunnel, no? E se schiaccio auto perlomeno qui nell'osmetro mi dà più watt, se schiaccio questo primo quando lo smetto, vedere se c'è differenza anche, guarda come adesso e guarda come adesso, ecco, vedi, così perlomeno da un wattimetro qui mi dà più watt, ecco, adesso l'ho affrettato di nuovo. Abbassala appena appena, che sei troppo alto adesso. No, ma l'accordatore lascialo disinserito, se stazionale non ne hai, dove c'è scritto auto, lascialo disinserito, devono stare tutte e tre in fuori qui, quelli, capito, lascialo stare, tutte e due in fuori devono stare, non te ne frega niente, poi se vuoi il controllo dei watt lo lasci al centro, il commutatorino quello piccolino, se vuole stazionare lo metti a sinistra, ma lascialo stare, non serve a niente, poi se stazionare non ne hai cosa ne fai dell'accordatore inserito. No, lo stavo solo provando perché ho notato quello, adesso in questo momento io ho il rosmetro inserito anche, no? E stavo controllando il VAT, però quando ho commutato auto, quando l'ho schiacciato, ho notato che i VAT sono saliti di parecchio anche rispetto a quando è disinserito auto. Quando lo schiaccio sale parecchi watt in più. Beh, normale. Normale perché ti dà la centratura dell'accordatore, quindi ti dà anche watt in più. Normale. Ma se stazionale non ne hai, la lascialo disinserito, non serve a niente. Va bene, è una bella rietta fresca, già va bene. Quindi sta uscendo bene questo MBP5, sì? Io ti sento benissimo. Io adesso il microfono l'ho cambiato, ho messo l'MC60 perché nell'altro c'è la batteria scarica. Per cui adesso sto utilizzando questo, diciamo, a 50 cm dalla bocca. Ma più che altro sono tutti microfoni che non hanno la riduzione del cosiddetto rumore, perché insieme alle vostre voci, allora su quella di Giulio si sente questa ventola che rompe le cervella, su quella di Claudio si sente sotto il rimbombo, la gente che parla, le automobili che passano, l'elicottero che sta atterrando. Ma le automobili no, che no. Puoi sentire la televisione, puoi sentire mia moglie che sta parlando, o mia figlia, c'è altra gente, ma io sono abbastanza distante, io sono a un angolo proprio del salone, quindi no. Ce l'ho a due io il microfono. Ma se smetti di parlare io ti dico cosa dice la televisione anche. Quindi è come se ce l'avessi nella stanza a 4-5 metri. Quindi è tutto un boom, boom, boom, boom. Giulio, questa specie di trappa non funziona, non ho capito cosa sia, se c'è un ventilatore acceso, se la ventola l'ha aperto o che cosa è, però è quasi prominente, come rumore. Ma mica si sente anche a te la ventola, mi sento una ventola io anche da te. Prego. Registrato il breco. Sì, sono microfoni molto ma molto sensibili, Gianfra. Io purtroppo come alimentatore ho quello switching e tra l'altro è anche abbastanza vicino, però bisogna che trovi la soluzione, o me ne compro uno di quelli a trasformatore tradizionale, o perlomeno, e poi ce l'ho, solo che è basso di amperaggio quello che ho, per cui non va bene. Oppure devo spostarlo da qualche altra parte, trovare le esclusività del sistema, come utilizzarlo, perché questo è da 30 ampere ed è quello giusto per questa radio. C'è stato un break, avanti. Capo Giulio, grazie, l'abbiamo fatto entrare, devo fare solo la passa a casa e poi vado via. Ciao anche a Gianfranco, per la sua. Capo, tutto a posto, Claudio, era quello lì. Purtroppo ne sappiamo, fra. Beh, quel difetto lo fa solo il Vox, quindi. Tieni tutto a zero, tutto spento, vedrai che non hai problemi. Usa solo quelle cose che ti ho detto io. Stai usando quella? Sì, sto usando quella con il suo microfono originale. Ottimo, va benissimo alla grande. Cappa. Ok, io vi devo salutare se devo uscire. Mi ha fermato mia moglie per me. Ci sentiamo, quindi sono entrato anche per salutarti. Ciao Giulio, ciao Claudio, ciao Gianfranco. Avanti Gianfranco. Sì, ciao, buona serata, allora alle prossime, avanti Giulio. Ok, ciao Franco, buona passeggiata, grazie per essere entrato a salutare, avanti Claudio. Ciao Fra, abbraccio, buona giornata, buon tutto, quando la necessità chiamami, non c'è problema, siamo qua, a presto. Ehi, ciao, dai, va bene, ci sentiamo, ciao ciao a tutti. Ciao di nuovo, Fraccia. Sì, così appunto dicevo Gianfra, l'MC60 è molto sensibile, dunque anche se passa una mosca, anche a distanza si sente sempre in sottofondo, magari alla modulazione, però sempre si sente qualcosa. Poi il discorso alimentatore come quello che ho io, switching con la ventola, è un disastro, è veramente un disastro, perché vanno bene, funzionano bene, hanno una buona stabilizzazione di tensione, però questo rumore della ventola è fastidiosissimo. Vabbè, comunque, ho questo e devo usare quello. Ok, vai Giotta. Sì, dovresti metterci le ventole, no? Le ventole particolari, speciali. Costano un po' care, però sono silenziosissime, sono fatte proprio per chi ha questi problemi di rumore, tanto sono identiche anche gli attacchi. Solo ripeto, costano molto più care di quelle che ci mettono loro, le produce. Tutto lì. O come fanno molti, se non c'hai la necessità di tutti gli amperi ci mettono un interruttore, metterci una resistenza e ridurre il numero di giri anche, quindi anche altro modo. E molti lo fanno, ho visto. Tutto lì. Ok, va bene, io vi devo lasciare perché devo fare cosa, mi stanno chiamando. Ci sentiamo a tutti, ciao Giulio, ciao Claudio, buona serata. Ciao Giaffra, ciao, poi ci aggiorniamo, dai, in questo momento intanto non te ti chiami. Sì Giulia, guarda che l'ho fatto anch'io sul Proxel, come vedi da me non ce n'è vento, io vabbè, è a 2 metri, sono a 2 metri gli alimentatori nel piano basso che tu ben conosci, però io l'ho fatto sul Proxel, l'ho messo una resistenza con un interruttore dietro, ok, che poi ce l'aveva già, solo che c'era l'interruttore ma non c'era la resistenza, e praticamente tenendo l'interruttore inserito la resistenza elimina la velocità della ventola e si sente molto molto molto, ma molto, quasi niente, quasi impercepibile, e raffredda lo stesso, abbassa la velocità ma raffredda lo stesso, quella è una cosa che ti puoi fare. Sì, quella è una buona idea, ciao Gianfranco intanto, stasera se coincide, grazie comunque per la chiacchierata di questa mattina. Sì, è fattibilissimo quello qua, sì, mi hai dato un'idea, è quasi quasi, ci provo magari dopo pranzo, ci provo, vediamo un po' se trovo una resistenza adeguata per abbassare quella tensione, intanto qua adesso sono sicuramente a 12, vabbè prima misuro e poi faccio il calcolo della resistenza e ne metto una che mi dia meno voltaggio, in modo da poter rallentare un po' la ventola, perché ho anche la sensazione che sia quella specie di griglia che c'è sul coperchio, che magari mi fischia anche per quel motivo, infatti stavo pensando, ma se tolgo il coperchio, voglio fare anche quella prova lì, togliendo il coperchio e trovando una soluzione diversa come coprire, magari allontanandolo, che so io, e vediamo un po', insomma, la soluzione la devo trovare, ecco. Qua fai quel lavoro, no, non c'entra niente, intanto riduce la velocità e automaticamente fa anche meno rumore sulla cassa. Io l'ho fatto e ho risolto il problema, perché anche il mio prima sentiva parecchio, capito? Li metti da lì sul, stacchi i fili della ventolina, inserisci la resistenza adeguata, se non mi ricordo da quanto sia, e forse non c'è bisogno manco di interruttore. Quando accendi lì, anziché partire a tutta velocità, e soprattutto quando schiacci la portante non aumenta i giri e quindi non ti crea quel problema di sentirsi, e raffredda lo stesso, va benissimo alla grande, non ho mai avuto problemi, ma è già da tantissimo tempo che l'ho fatto, non mi ricordo chi me l'aveva detto di fare così, comunque l'ho fatto e va bene. Ok, sì, è una buona soluzione quella, perché girare gira ugualmente, per cui magari soffia di meno, però lo raffredda ugualmente, sì. Dopo pranzo ci provo, guardo tutte quelle cose che ho, se trovo una resistenza adeguata e farò quell'applicazione, così almeno cerco di eliminare un pochino del rumore, perché del rumore si tratta. Anche a me dà fastidio, a me personalmente che ci sono vicino, mi dà fastidio sentire questo fischio. Anche la notte, per dire, se devo ascoltare, no? Insomma, c'è la camera di mia figlia vicino e lo sentivo, infatti una notte mi ha detto, ma qual è questo rumore che si sente il fisso? È la ventola del baracchino, gli ho detto, non è niente. Ho fatto, e allora ho capito che dovevo fare qualche accorgimento, e infatti stavo usando, solo per l'ascolto, un alimentatore da 7 A, ma non è sufficiente per trasmettere chiaramente, e ascoltavo solo con quell'alimentatore, che è quello tradizionale a trasformatore, tutto lì, proprio per evitare il rumore della notte. No, tu aprilo, metti una resistenza, non ci bisogna manco l'interruttore, guarda. Perché ricordandomi bene, l'interruttore nell'altro alimentatore della Diamond, che non è neanche il mio, di Gianfranco proprio, e quello c'ha l'interruttore già suo che aumenta e diminuisce la velocità della ventola, è nato così. faccio io della Proxel, c'è proprio solo la resistenza, e quando lo accendi anziché partire veloce rimane, non si sente neanche, prima si sentiva un bel, e anche quando schiacci la portante rimane alla stessa velocità, non aumenta, mentre sicuramente il tuo quando schiacci la portante aumenta la velocità, ed è per quello che si sente parecchio, capito? Sì, qua in effetti è vero, mettendosi una resistenza fa quel lavoro lì, certo, anzi addirittura potrei metterci anche un potenziometro e lo regolo a mio piacimento, perché il potenziometro classico, non quello col gambo lungo, quello col gambo cortissimo, è che appunto gli dai la resistenza che serve, però prima devo capire da quante ohm deve essere, e così me lo posso regolare a mio piacimento la velocità. Sì, ma è così, io ho qua. Stasera dopo pranzo mi diverto, così poi magari più tardi avremo modo anche di sentirci e di fare la prova generale se funziona il sistema o meno. Sì, se rimane questo venticello, questo fresco, già si può, due chiacchiere si possono fare, diversamente c'è caldo dentro. Va bene, sì, io devi comprare, caspita, se queste cose te le sai fare, te lo fai. Metto una resistenza, un potenziometro, un interruttore, ma potenziometro è anche più bellino, lo metti dietro. Te lo regoli a tuo piacere, nel senso che vedi se lavora bene la ventola e la lasci così regolata, è una canonata. Eviti di sentire questo rumore sia in ricezione che anche quando stai parlando. La soluzione è quella, capito? Va bene. E via. Vabbè, io la mia prossima intenzione è di mettere niente qua, però a volte era annoiato, allora magari mi metto, ascolto, e niente, quando capita magari entri, fai due chiacchiere, ma non ce n'è più voglia. Ui. No, tolgo tutto, Giulio, a risponderti di prima, sì, tolgo tutto perché tanto non faccio nessuna attività, non mi interessa, e le tolgo anche perché la casa è sempre in vendita, quindi non sa mai che capiti l'acquirente e poi devo perdere un sacco di tempo per togliere le antenne, invece lascio libero così, tutto libero, in modo che poi 10 minuti la vantova me la tolgo da solo, di polo, taglio i fili, l'ingaggio in terra, lo piego e lo metto dentro un sacco, non è quello il problema, smontare tutto il lavoro che c'è è un bel casino. E quindi mi preparo già, dai. Sì, beh certo, qua. Perché praticamente con la specie di tralicetto che avevi messo una volta, quello lo lasci sempre attaccato, non lo togli solo l'antenna e basta. No, butto giù tutto. La mantova c'è un palo su, a parte, a 2 metri, quindi allungo le mani, svito l'antenna, la tolgo, la porto via. E di polo è agganciato con due paletti da una parte e dall'altra, taglio i cavi che mantengono praticamente il nylon, scende per terra, lo piego, lo porto via. No, tolgo tutto il sistema, VHF, UHF, direttive, la grande l'abbiamo già tolta, la 3 elementi, quella non c'è più, c'è la 5 elementi dei 6 metri, con rotore ancora attaccato, e poi in punta al master c'è la bibanda V e U, tolgo tutto, non mai faccio niente, tolgo tutto, capito, giù, tutto, proprio tutto, tolgo anche il sistema di commutazione elettronico, ritiro tutti i cavi, li piego, lo fai pulizia, ho chiesto l'intervento di due amici, li pago, vengono, mi fanno tutto, il lavoro, pulizia, bigia nel dutto, visto che la lampada si rampa tutto, c'ho la mansarda che è piena tutta di alluminio, di pezzi di alluminio, di tubicini, si borsa tutto da Macedo, da Gosmino, andate a mangiare una pizza, vedi che ci vibbiate, bussetti si tutto, non me ne fotte più nulla, devo fare pulizia, proprio pulizia vera e propria, sia sul tetto che dentro. Sì, eh beh certo, se non si è più interessato è inutile tenerle tre cose, cosa ci da fare, no, non è proprio il caso, avete considerato che poi al limite è proprio il voglia di fare attività anche con un di polo, puoi sempre farlo, no, non è un problema, certo, fra, tanto non c'è bisogno di andare oltre l'oceano per parlare, puoi parlare anche in Europa tranquillamente con un di polo. Va bene così, va bene, certo. E va bene, quasi quando mia figlia qui al negozio che c'è vicino a casa, se c'è una batteria uguale a questa, te la faccio vedere, vediamo un po', poco che ce l'abbiano, quel supermercato che c'è vicino a casa. Perché io sono, no, e poi non voglio uscire, sono da vestire praticamente, sono in pantaloni corti, ti puoi immaginare, in canottiera, no, non ho nessuna voglia di uscire. Ma vedi già giovane, quasi la mando. Vediamo un po' se mi comprano la batteria, se ce l'hanno, ma suppongo di sì. Sì, già ce l'hanno, ce l'ho quelli dura, c'è supermercati che danno, ma infatti io su questo ne ho messo una di quelle, aiuto così. Non sto, perché io poi devo prendere la macchina, andare, insomma, è abbastanza lontano, vai. Va bene, no, ma a me non mi interessa andare, non mi è mai interessato andare oltreoceano e fare, io ho sempre detto che sono un radioamatore nella carta, non mi sono mai vantato di essere un radioamatore di XC o come tutti gli altri, ci occupo infatti mio, adesso poi che non si paga manco più la concessione, figurati se mi preoccupo, lascio una campagna e baracchino fisso, e il resto, quelli che non uso li metto a parte, quello che uso me lo tengo in vista e basta, non mi interessa Giulio. Buttato tanti di quei soldi, non aggiù più gana la parte di Napa, vabbè dammi il radio e l'antenna, non mi interessa, non mi riguarda più, pago e mi faccio fare tutto quello che c'è da fare sul tetto, anche perché voglio, ci sono anche dei lavoretti da fare, visto che sono anche due muratori bravi, mi faccio fare alcuni lavoretti, devo vedere quello che c'è da fare adesso dopo Ferragosto, dopo le feste, vediamo un po' di organizzare e di fare tutto. Vabbè, se devi uscire ti lascio, dai. Io mi faccio due cosette qua e preparo anche il mangiare per i cani. Ok? D'accordo, qua, sai, eventualmente se coincide ci facciamo una chiacchieratina stasera, dai. Sempre che te lo permette il caldo, ma suppongo di sì, e poi basta provvedere qui nella stanza, problemi secondo me io non ne ho, e tanto meno ne avrei tu, per cui volendo possiamo anche chiacchierare. D'accordo qua, dai, allora ti saluto, buon pranzo, quando lo farai, tra una mezz'oretta, perché già mezzogiorno e 25, è passato anche, e anch'io mi stacco un attimino, adesso o mi metto i pantaloni e ci vado io di persona, o perlomeno vedo un po' se mia figlia, perché sta lavorando, non so se si può liberare 10 minuti per andare a comprare questa batteria. Va bene, ok, a stasera allora qua, grazie per la chiacchierata, è sempre un piacere ascoltarti, alle prossime, ci sentiamo, ciao, ascolto il finalino e chiudo. Ciao Giulio, piacere mio, dai, ci aggiorniamo, se coincide già ci sentiamo stasera, se no alle prossime. Ciao, buona passeggiata e buon tutto, ciao ciao, e buon pranzo quando lo fai. Ok, ciao.